dell'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Radio 24 per il nostro viaggio settimanale in compagnia di questa Europa, un programma in collaborazione con il network Euronet Plus, tante radio, tante lingue diverse per un percorso comune. Le coordinate virtuali euronetplus.eu, il sito ufficiale per vedere queste inchieste, i dossier, aggiornamenti quotidiani che potete appunto leggere in più lingue, leggere e ascoltare. Euronet Plus R24 e Federico Taddia invece con la chiocciolina per trovarci sia su Facebook che su Twitter, piazze virtuali che aggiorniamo minuto per minuto con i link relativi agli argomenti che andiamo a toccare. Radio 24 segue quotidianamente l'avventura europea, l'attualità economica, l'attualità politica. Noi il sabato cerchiamo anche altri punti di vista. Sono mesi importanti quelli che aspettano l'Europa, questo cammino verso le elezioni del maggio 2014, elezioni importanti perché l'Europa è la nostra casa, perché l'Europa è la nostra quotidianità, perché l'Europa incide nelle nostre scelte. Noi possiamo scegliere chi mettere là nel cuore dell'Unione per queste scelte, per queste decisioni, per le visioni che però vanno supportate anche da quella che è cultura, da quella che è la creatività, da quella che è la partecipazione, ed è quello che cerchiamo di fare noi, proporre l'Europa come una bella e calda opportunità. E il primo ospite ci porta proprio in questa direzione. Diamo il benvenuto a Marco Boschini dell'associazione Comuni Virtuosi, appena tornato dal Parlamento europeo, dove ha portato un pezzettino dell'Italia che funziona là nel centro dell'Europa. Ciao Marco, benvenuto all'Altra Europa. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Ti ho presentato come segretario dell'associazione Comuni Virtuosi, ma forse ho anche sbagliato. Qual è la giusta carica? Qui si chiama coordinatore, ma la sostanza non cambia. Ok. Allora Marco, cosa è successo? Cosa sei andato a fare? Perché ti hanno invitato? Cosa è successo a Bruxelles? Allora, siamo stati invitati dall'europarlamentare Vittorio Prodi, che dirige questa rivista che si chiama Diario Europeo, e all'inizio dell'anno scorso ha dedicato un numero speciale alla Carta Fondamentale dei Diritti d'Europa e ha chiesto a diversi soggetti istituzionali e non di raccontare attraverso gli articoli di questa carta le esperienze che in giro per soprattutto l'Italia si fanno dentro e fuori le istituzioni per un'altra Europa. A noi è stato chiesto di parlare nello specifico dei nostri temi, quindi della sostenibilità ambientale. Io ho scritto questo pezzo. Da questa rivista, da questo numero speciale, è stata poi tratta una mostra con delle illustrazioni che sono state fatte, dei pannelli che ripercorrono appunto i diritti fondamentali dell'uomo, e questa mostra è stata inaugurata questa settimana al Parlamento europeo, e quindi questo è il motivo per cui sono andato a raccontare un po' dell'esperienza dei comuni virtuosi. Ecco, l'esperienza dei comuni virtuosi cosa può portare all'Europa? Quali sono state le reazioni? Come è stata colta questa esperienza virtuosa per l'appunto? Ma le reazioni sono state, penso, positive. C'erano molti giovani, molti ragazzi un po' da tutta Italia, e ai quali abbiamo cercato di raccontare, di far passare un messaggio importante, comunque la si pensi, cioè che la politica in generale, in quanto tale, come strumento per rispondere alle esigenze della collettività, può essere ancora una cosa bella, positiva, a volte anche addirittura meravigliosa se fatta con spirito di servizio, come un servizio civile. E in questo senso l'Europa è uno strumento fondamentale, cioè l'Italia, gli italiani devono ricominciare un po' ad alzare lo sguardo e a capire che siamo dentro un contesto più ampio, e il tema della sostenibilità ambientale, che è ciò di cui ci occupiamo noi dal 2005, è secondo me il nuovo paradigma attraverso il quale declinare l'Europa che deve arrivare, insomma. Comuni virtuosi sono buone pratiche di buona amministrazione, nelle scelte anche che vengono fatte in comuni a volte grandi, ma tante volte comuni medi, comuni piccoli, esperienze di comunità, esperienze di cittadini che vogliono incidere sul proprio futuro. Ecco, in queste scelte di buone pratiche amministrative si guarda spesso all'Europa? Si riguarda all'Europa, soprattutto sul tema dei diritti e soprattutto sul tema delle buone pratiche amministrative. Noi abbiamo intere comunità che attingono alle esperienze virtuose che si fanno nei grandi centri europei sulla mobilità, sulla gestione dei rifiuti, sulla gestione dell'energia, sul tema fondamentale dei beni comuni, e provano a declinarle e a riproporle in Italia, nei nostri centri. Dobbiamo sforzarci di fare un salto di qualità e di portare queste esperienze, che in Italia oggi si fanno soprattutto nei comuni medio-piccoli, anche nelle grandi città, perché sui temi della pianificazione urbanistica, sui temi della mobilità, che sono temi centrali, avendo un modello di sviluppo che ci porta a consumare energia, a spostarci in modo inutile, a mangiare territorio, dobbiamo riuscire a incidere sui grandi numeri, sulle grandi scelte strategiche, e queste cose possono essere fatte a un livello superiore rispetto ai piccoli comuni. www.comunivirtuosi.org per avere tutte le informazioni. E la mostra, dove hai detto che si tiene, a Bruxelles? Proprio all'interno del Parlamento europeo, penso che rimarrà per tutto il mese di dicembre, e dopodiché tornerà la mostra in Italia. Perfetto, grazie davvero Marco, complimenti a te e a tutto il tuo team. Ciao, grazie, buon sabato. Ciao ciao. Ora un euro post-it, le informazioni per chi sta viaggiando, poi ancora qua con l'altra Europa. Euro post-it. Europe Wants You. Volete conoscere come funzionano i servizi europei per l'impiego e avere suggerimenti utili per lavorare in un altro paese, magari anche divertendovi? Allora giocate a Europe Wants You, il gioco online messo a disposizione da Eures, la rete europea dei servizi per l'impiego. I giocatori devono compiere una sorta di missione all'interno delle regole che deve seguire e le sfide che deve affrontare chi sceglie di andare a lavorare in un altro paese europeo, gestendo tante piccole cose, dalla preparazione prima della partenza allo studio del mercato del lavoro del paese di destinazione. Alla fine della simulazione e del gioco, chi ha il punteggio più alto vince anche una videocamera vera. Siete curiosi? Preparate il mouse e andate su europewantsyou.eu. L'altra Europa. Avez-vous déjà vu une table? Oui. Table qui rigole, qui rigole. Et pourtant cela existe. Ah bon? Où ça? Dans mon école. À moi. Dans Una canzoncina, una canzoncina popolare francese. Si parla di scuola. C'è il panico in Francia perché la Francia viene retrocessa dal 22esimo al 25esimo posto nella classifica che valuta la competenza dei ragazzi di 15 anni in lettura, matematica e scienze. Stiamo parlando della ricerca PISA, dell'OCSE, e sono usciti i dati un paio di giorni fa. Questo studio triennale che cerca appunto di analizzare le competenze scolastiche fotografando i quindicenni come campione, PISA 2012 ha visto la partecipazione di tutti i 34 membri dell'OCSE e di 31 paesi partner, circa l'80% dell'economia mondiale. La Commissione Europea ha fatto uscire un comunicato stampa in cui ci dice: relazione sulla scuola dell'Unione Europea, qualche miglioramento in scienza e in lettura, ma c'è carenza in matematica, questo a livello generale. Poi ci sono forti differenze anche all'interno dei singoli stati. Per avere un quadro complessivo, anche se difficile da realizzare questa fotografia sintetica, abbiamo invitato Susanna Mantovani, professore ordinario di pedagogia generale del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione Riccardo Massa dell'Università Milano Bicocca. Si occupa di formazione degli insegnanti e di valutazione della performance. Buongiorno Mantovani. Buongiorno. Benvenuta. Salve, salve. Buongiorno. Salve. Allora, intanto, che peso bisogna dare alla ricerca PISA OCSE? Questa fotografia sui quindicenni è comunque un indicatore importante e credibile? Ma è certamente un indicatore, sono ricerche fatte con serietà e sviluppate negli anni, e come tutte queste ricerche su grandissimi numeri sono appunto un indicatore, una freccia, indicano delle questioni, delle confronti, ma non spiegano. E come si svolge? Nel senso che è una giornata in cui i ragazzi sono chiamati a svolgere un test o è un qualcosa di più? Sì, sono delle prove. Oggi i ragazzi delle nostre scuole con le prove Invalsi si sono abituati un po' di più a questi aspetti che riguardano la lingua, la lettura, la matematica e la scienza. Della scienza non si parla mai abbastanza. Sono prove non nozionistiche. Lo spirito di queste prove è che misurino non solo la competenza nelle materie e sulle conoscenze, ma proprio sulla capacità di comprensione e di trasferimento di quello che è stato appreso. Ecco, dai dati di quest'anno qual è? Mi piacerebbe avere sia una lettura italiana sia una lettura europea, proprio quelle che sono le tendenze più significative. Ma diciamo che l'Italia è in un piccolo, stabile, lento miglioramento come alcuni altri paesi europei. Di per sé questo non è male, visto che la nostra scuola è un po' in confusione e che non ha avuto delle risorse aggiuntive negli ultimi tempi. Quello che colpisce ancora una volta è l'enorme disparità all'interno del nostro paese tra le prestazioni, le capacità mostrate dai ragazzi in diverse zone del paese, in diverse città, in diverse regioni. Direi questo è il dato, se volete, dal punto di vista italiano più forte, che dovrebbe far riflettere di più. Noi riusciamo a garantire in qualche modo a tutti i ragazzi nello stesso modo di poter apprendere le cose ritenute importanti. E questa forbice a livello europeo invece è più limitata o è una tendenza? Guardi, bisognerebbe guardare i dati in dettaglio nei grandi paesi. La forbice è limitata in alcuni paesi che hanno delle performance molto elevate, come non fa la Finlandia, o i paesi nordici, sono però molto piccoli. Finlandia e Norvegia hanno 5 milioni di abitanti, la Svezia ne ha 9 milioni. Cioè, bisognerebbe confrontarci con i paesi grandi, più grandi. Allora sono interessanti altri dati, è interessante l'Olanda. La Germania sta migliorando un po' più in matematica, ha fatto uno sforzo molto grande, c'è un po' di soddisfazione. Anche la Germania, come noi, è un paese abbastanza diversificato. La Francia invece è delusa. Non siamo così distanti dalle performance di alcuni altri grandi paesi europei, non abbiamo fatto come paese un balzo in avanti, anche se alcune delle scuole, delle regioni hanno delle prestazioni molto molto elevate. Ecco, ma alla domanda se uno potesse scegliere dove sarebbe meglio andare a scuola, c'è una risposta oggi in Europa? Perché? Per stare bene a scuola, il che molto probabilmente è anche correlato a dei buoni risultati, ma per esempio se ne parla poco la Svizzera. La Svizzera qualche anno fa ha fatto una riforma della scuola abbastanza approfondita, molto seria, ma che nello stesso tempo valorizza i ragazzi e lascia anche alcune possibilità di scelta e verifica periodicamente l'insieme degli apprendimenti. Ma noi andiamo bene, come si sa, fino a tutta la scuola primaria. Il calo comincia con la scuola media, che tutti diciamo è un po' l'anello più difficile della nostra scuola, dove cioè, non solo per l'apprendimento della matematica e delle scienze della lettura è un discorso un pochino difficile da fare. Professoressa, ma dalla sua esperienza e dei suoi studi, l'uscita di questi dati periodici corrispondono poi a delle scelte, a dei cambiamenti di programma, a delle decisioni? Credo che per esempio il maggior peso dato anche dall'informazione a queste ricerche internazionali, che sono antiche anche prima della PISA, ma diventate molto più note con l'OCSE e PISA, hanno per esempio influenzato la formulazione e anche in certa misura l'accelerazione della valutazione del nostro sistema con gli Invalsi. Sicuramente fanno pensare gli insegnanti a modalità diverse di insegnare le discipline, anche se i rapporti, le ricerche, tutti mettono in guardia contro quello che viene chiamato il teaching to test, insegnare per superare la prova, per fare l'esempio un po' come per i quiz della patente. E sicuramente mettono davanti gli insegnanti, le scuole, i genitori al confronto con gli altri e quindi stimolano un cambiamento riflettuto, almeno così mi auguro. Grazie davvero alla professoressa Mantovani, professore ordinario di pedagogia generale alla Università Milano Bicocca. Buongiorno, buon Grazie sabato Mantovani. Grazie. Grazie, buon lavoro. Europost-it. High Education Innovate, il nuovo sito per misurare la performance degli istituti. La Commissione europea, in collaborazione con l'Organizzazione per la Cooperazione Economica e lo Sviluppo, ha lanciato un nuovo portale che aiuti gli istituti universitari a valutare la propria performance. HE Innovate permette agli istituti di indagare l'offerta dell'università in 7 aree: leadership e governance, insegnamento e apprendimento, scambi università-impresa, istituto internazionalizzato e misure dell'impatto in termini di competitività e di visione imprenditoriale. Si inseriscono alcuni dati in una procedura guidata e il sito genera i risultati, sottolineando le aree di forza e di debolezza. Sul sito si trovano anche alcuni case studies ed esempi di buone prassi. Il sito è gratuito e i dati rimangono di proprietà di chi li ha inseriti e non vengono conservati. Volete provarlo? Andate su heinnovate.eu. C'era anche un estratto di questo concerto d'addio degli Oslo tra i materiali preparati dagli studenti del liceo Majorana di Milano, vincitori, tra i vincitori del progetto eTwinning di quest'anno. Si sono svolti a Firenze in questa giornata promossa ieri proprio dal Europe Direct Firenze, giornata voluta per presentare il futuro del programma Erasmus Plus, e si sono svolte le premiazioni di questo importante progetto europeo. Si tratta di gemellaggi attraverso le vie elettroniche, gemellaggi tra scuole per interagire, per conoscersi meglio, per fare cultura e contaminazione. Con noi c'è proprio Antonella Ciriello, insegnante di lingua e letteratura francese del liceo scientifico Majorana di Milano. Buongiorno professoressa. Buongiorno, buongiorno. Innanzitutto vorrei dire che la scuola non è di Milano, ma è di Milano con la R in provincia di Venezia. Oh, scusa. No. Ecco. Era un grande refuso. No, ma non c'è problema. Chiedo scusa. Allora, niente, se vuole un pochino le parlo del progetto. Sì. E il progetto è stato un viaggio virtuale che abbiamo effettuato, e hanno effettuato i miei studenti di una quarta liceo, insieme in collaborazione con studenti spagnoli e rumeni. L'obiettivo principale, come lei ha detto bene, era proprio la costruzione di una cittadinanza europea attiva. E come? Praticamente gli studenti, divisi in gruppi di nazionalità diverse, hanno cercato di esplorare alcune città europee, cercando di evidenziarne i tratti più importanti da un punto di vista per costruire una cultura europea comune. Mm-hmm. E naturalmente lavorare in gruppo non è sempre facile, quindi hanno dovuto tra di loro mediare, hanno dovuto tra di loro anche alle volte arrivare a dei compromessi. In gemellaggio con altri istituti, con altre scuole? Sì, con una scuola spagnola di della Galizia, sì, e una scuola rumena di Brasov. Okay. E quindi hanno lavorato proprio in gruppi multinazionali e quindi hanno cercato di identificare quelle che sono le caratteristiche di queste città che possono fare proprio di dare il senso di una comunità europea comune. E si sono occupati di alcune città, appunto, oltre a Oslo, che per loro è importante per quello che riguarda l'energia, il futuro dell'energia e così via, anche altre realtà, Parigi, hanno scoperto la storia. Abbiamo siamo riusciti anche a recuperare Carlo Mortandello, che credo sia, sì, uno suo studente. Ciao Carlo, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, eccolo, grazie lì. Mille. Ciao. Ricordiamo che appunto voi siete tra i 15 vincitori del premio nazionale eTwinning 2013. Diamo il sito per conoscere tutti i progetti, che è www.etwinning.it. Carlo, com'è stata come esperienza? Perché appunto ci sono le idee, ci sono i progetti, ci sono i programmi, poi ci sono i ragazzi che questa cosa la fanno loro e si mettono in gioco. Personalmente come l'hai vissuta? L'esperienza è stata molto bella e soprattutto costruttiva. All'inizio forse avevamo un po' di sfiducia perché pensavamo a un progetto europeo come un progetto un po' troppo ampio, un po' troppo impegnativo da affrontare in modo veramente consapevole. Poi in realtà il progetto si è espresso molto bene, si è svolto molto bene. Infatti i risultati che abbiamo ottenuti, posso dire a nome di tutta la classe, sono stati dei risultati pienamente soddisfacenti. È stato utile soprattutto per quanto riguarda anche l'utilizzo della lingua francese, che è una lingua che il nostro corso di studi prevede, esatto. Ma questa lingua è stata utilizzata come mezzo veicolare. Molto spesso utilizziamo la lingua francese solo come mezzo per esprimere i concetti della letteratura che facciamo a scuola, e quindi abbiamo riscoperto anche l'utilità di una lingua come mezzo di comunicazione, come mezzo di scambio anche culturale con ragazzi di nazionalità diverse. Nel nostro caso avevamo compagni provenienti da Spagna e Romania, e con loro si è instaurato un vero e proprio rapporto di collaborazione e cooperazione. Abbiamo organizzato dei gruppi che erano eterogenei, avevano studenti, ragazzi e ragazze che provenivano sia dalla Romania che dalla Spagna, e con loro abbiamo cercato di portare avanti dei progetti attraverso dei programmi online che si trovano molto spesso, e quindi è una sorta di, abbiamo creato dei cartelloni praticamente. Cartelloni virtuali, insomma, vi siete cartelloni virtuali, ritrovati. Quindi pur essendo distanti migliaia di chilometri, ci siamo trovati a casa di qualcuno, ecco, per creare il tradizionale cartellone, e quindi è diciamo un modo di cooperare moderno, certo. In sintonia con il 2013, in sintonia con i mezzi e la nostra generazione. Questo è. Carlo, credo insomma hai sintetizzato benissimo quello che è lo spirito di Twinning. Grazie davvero a Carlo Mortandello, quinto liceo scientifico di Milano, provincia di Venezia. Un grazie anche alla professoressa Ciriello. Vi abbiamo preso così come simbolo dei 15 progetti italiani premiati. Adesso ci fermiamo, la pubblicità, poi ancora qua con l'altra Europa. Europost-it. Formazione europea per gli insegnanti. Un percorso di formazione per gli insegnanti sulla cittadinanza europea, con esperti che guidano l'aggiornamento professionale e la distribuzione di kit multimediali bilingue da proporre agli studenti. È l'iniziativa proposta dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la rappresentanza in Italia della Commissione europea, l'Ufficio di Informazione in Italia del Parlamento europeo, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e in collaborazione con il centro Europe Direct della regione Lombardia. Il progetto è dedicato a tutti i docenti delle scuole secondarie ed articolato in 6 sezioni informative regionali. L'iniziativa in Lombardia si terrà a Milano il 10 dicembre 2013 presso la sala Marco Biagi di Palazzo Lombardia. Per partecipare è necessario compilare e inviare il modulo di iscrizione all'indirizzo redazione@civicamente.it. Per saperne di più, europedirect.regione.lombardia.it. L'altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa, radio24.it, il nostro sito per riascoltare poi la puntata in podcast, le coordinate invece per trovarci su Facebook e su Twitter, @Euronet Plus R24, oppure la mia personale, @Federico Taddia. Ora vogliamo parlare di un evento che ci sarà lunedì 9 dicembre alle ore 10.30 presso la sala polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È l'evento conclusivo dell'anno europeo dei cittadini. Saranno presenti il Ministro per gli Affari Europei Enzo Moavero Milanesi, il Ministro per l'Integrazione Kyenge, il Sottosegretario all'Istruzione, Università e Ricerca Gianluca Galletti. L'occasione per concludere ufficialmente questo anno di cui tanto abbiamo parlato, che abbiamo tentato di seguire per trovare tutte le possibili declinazioni di cittadinanza europea. E sempre in occasione di questo evento verrà presentato un importante progetto ideato per spiegare ai cittadini stranieri naturalizzati italiani come beneficiare dei diritti dell'Unione. Si chiama Europa nelle lingue del mondo. E proprio per anticipare i temi della giornata diamo il benvenuto al Ministro per l'Integrazione Kyenge. Buongiorno Ministro, benvenuto all'Altra Europa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sappiamo che è in viaggio, quindi le ruberemo poco tempo. Qual è il valore di questa giornata? Si conclude un anno legato alla cittadinanza europea. Credo che sia un tema a lei particolarmente caro. Sì, questo particolare, quindi... Lo sapevamo che il treno ci avrebbe causato qualche problema, tentiamo di recuperare immediatamente la linea. Intanto vi ricordo il sito per le informazioni, che è anneuropeocittadini.politicheeuropee.it, dove sono raccolte tutte le iniziative legate a quest'anno, appunto, iniziative, progetti, programmi ancora in essere, perché comunque, come sempre, è vero che si dedica un anno a un tema, ma è anche vero che si prendono poi mille declinazioni relative a questo argomento. Mentre cerchiamo di recuperare il ministro, vediamo, ecco, forse ce l'abbiamo fatta. Pronto, ministro? Eccomi qua. Ci riproviamo. Esatto. No, chiedevo qual è il valore di questo anno per, appunto, tema particolarmente caro per quello che riguarda le sue attività, le sue politiche. Sì, è molto importante, anche perché sono ormai 6 mesi che parlo della cittadinanza. Questo è un anno, il 20° anniversario della cittadinanza dell'Unione, e questo è stato istituito dal Trattato di Maastricht. Quest'anno approfittiamo di questo evento anche per iniziare un altro percorso, quello di ricordare quali sono i benefici, anche quali sono i valori dell'Europa e quali possono essere anche i diritti che ogni cittadino possa avere all'interno, appunto, della comunità europea. E su questo è importante anche far capire che appunto proprio questo articolo 20 del Trattato dell'Unione stabilisce che chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell'Unione. Certo, il progetto prevede anche la creazione di questo sito internet in 4 lingue, italiano, arabo, russo e bangla. L'idea è proprio quella di aprirsi anche agli italiani e ai cittadini stranieri. Ci riproviamo perché sì, riproviamo un'altra volta, siamo testardi, proviamo un'altra volta a cercare di recuperare il ministro. Vi ricordo ancora anneuropeecittadini.politicheeuropee.it, e per avere informazioni anche riguardanti questo Deplian, questo importante progetto che viene lanciato in conclusione dell'anno europeo dei cittadini, proprio per parlare anche ai cittadini stranieri. Ministro, ci riproviamo. Pronto ministro? Niente, siamo testardi, ma non è abbastanza. Allora salutiamo il ministro e cambiamo argomento, ma neanche tanto, perché continuiamo a parlare di consapevolezza europea. Assieme sul serio o di nuovo divisi, si sentirono dire. La risposta fu generosa. C'è anche un musical per parlare di Europa. Europa, che passione, storia di un amore tormentato, in programma al Teatro Argentina in questa giornata di consapevolezza europea, un progetto realizzato da CESUA, Centro Studi Formazione, Comunicazione e Progettazione sull'Unione Europea, promosso dalla Commissione Europea, Parlamento Europeo e Dipartimento delle Politiche Europee. Una giornata per parlare di Europa. L'autore del musical, ma anche uno dei relatori della giornata, è Francesco Pigozzo, a cui diamo il benvenuto. Ciao Francesco. Buongiorno. Aspetta che ti do... oltre ad essere autore di musical, hai anche una carica ufficiale. Sei ricercatore della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che è uno dei fondatori del CUSUE, il Centro Studi sull'Unione Europea. Esatto. Intanto, come mai la scelta di un musical e cosa hai cercato di raccontare unendo musica e parole? Ma allora, io sono coautore insieme a Daniela Martinelli, e il nostro tentativo è stato quello di raccontare la storia del processo di unificazione europea, cioè del tentativo di costruire istituzioni sovranazionali in Europa a partire dalla Seconda Guerra Mondiale ad oggi, come se fosse una storia d'amore. Il tema ricorrente dell'opera è assieme sul serio o di nuovo divisi. Questo è il tema centrale, insomma, che poi è la domanda che si pone anche oggi di fronte alla crisi che sta attraversando l'intera società europea, assieme sul serio di nuovo divisi. E questa storia è una storia coinvolgente, come tutte le storie d'amore, ed è effettivamente una storia d'amore che ci riguarda tutti, non riguarda dei personaggi estranei, e la cosa ancora più bella è che è una storia d'amore senza un esito ancora scritto, dipende da noi, insomma. Uh-huh. E gran parte, poi devo dire, della bellezza di questo musical sta anche nella grandissima capacità di interpretazione di Paolo Barillari, amico oltre che professionista, cantante, che affronta la storia canora che è insita in questo racconto con delle interpretazioni meravigliose di canzoni che vanno dagli anni 50 fino ai giorni nostri. Quindi, insomma, raccontare la storia dell'Europa anche attraverso queste canzoni. Esatto. Giornata di consapevolezza europea, il musical, poi due importanti appuntamenti nel pomeriggio, uno dove sarai tu il relatore, moderatore, educare la cittadinanza europea e globale, e poi invece 2014 verso l'unità politica dell'Europa, il ruolo della società civile in vista delle elezioni europee, del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, col professor Fabio Masini, ci sarà anche Lucio Battistotti. Che cos'è la consapevolezza europea? Come si può definire oggi? Dunque, la consapevolezza europea è, a mio parere, a nostro parere, a parere del gruppo che è coordinato da Roberto Castaldi all'interno della Scuola Sant'Anna, che poi ha dato vita appunto a Cesue. La consapevolezza europea è la consapevolezza da parte dei cittadini che in questo momento noi europei, come europei, dobbiamo darci la possibilità, dobbiamo scegliere se darci o meno la possibilità di decidere chi deve governarci dal punto di vista delle materie di politica economica e fiscale da un lato, e anche di politica estera e di sicurezza dall'altro. Oggi in Europa questa non c'è una grande chiarezza e non c'è una grande capacità di scelta da parte dei cittadini, ed è questa in realtà, dal nostro punto di vista, la ragione di fondo da un lato della crisi che sta attraversando anche l'euro, e l'unico modo, anche l'unico tema dall'altro lato da affrontare veramente fino in fondo se vogliamo risolvere questa crisi e non soltanto creare una partecipazione dei cittadini per le elezioni europee, che è fondamentale, ma creare una partecipazione attorno a un potere di decidere, di scegliere nel mondo globalizzato, che purtroppo oggi non è veramente ancora sufficientemente nelle mani di un livello europeo di governo. E nel tuo incontro andrai a cercare buone pratiche sull'educazione alla cittadinanza europea, esistono, insomma c'è anche una ventata di ottimismo? Devo dire che esistono senz'altro, di una avete parlato voi prima, perché Europa uguale noi, questo progetto appunto del Dipartimento Politiche Europee, sì. Commissione Europea, Parlamento Europeo, è sicuramente un esempio di buona pratica, con una community di migliaia di docenti in tutta Italia che condividono materiali didattici ed esperienze. E poi, se posso ovviamente citare invece la nostra buona pratica, quella da cui nascono le giornate di consapevolezza, noi alla Scuola Sant'Anna stiamo continuando ad andare avanti con dei materiali didattici, con delle esperienze didattiche nel sistema toscano e ormai nel sistema nazionale scolastico, che sono piuttosto innovative, insomma sfruttano tutti i mezzi tecnologici a nostra disposizione. Abbiamo in particolare quest'anno in preparazione una serie di 21 videopillole su concetti trasversali interdisciplinari che possono non soltanto insegnare qualcosa sul processo di unificazione europea, ma insegnare a imparare a ragionare del processo di unificazione europea, perché uno dei problemi che hanno i cittadini è sicuramente il fatto che abbiamo un dibattito politico e mediatico che è molto incentrato sul livello nazionale e che quindi impedisce di prendere la prospettiva giusta per capire certi problemi. Certo. Grazie davvero, sicuramente ci ritroveremo in una delle prossime puntate dell'Altra Europa. Cesue.eu, il sito ufficiale. Ciao e buon sabato. Grazie. Informazioni per chi sta viaggiando. L'Altra Europa. Questa musica arriva direttamente dal Gucca Festival, è un festival di trombettisti tra i più importanti d'Europa, si tiene in Serbia. Perché stiamo andando in Serbia con l'Altra Europa? Tante volte varchiamo in punta di piedi i confini dell'Unione, andiamo a cercare, a vedere, a visitare i paesi che un giorno faranno parte di questa Europa, perché l'allargamento è uno dei concetti che più ci piace, la penisola balcanica, in vari in vari modi, in varie direzioni, a vari livelli anche, no? C'è un percorso di queste nazioni per entrare in Europa, c'è chi bussa, c'è chi è entrato, c'è chi sta aspettando, c'è chi si sta muovendo affinché ciò possa accadere. Ovviamente la titubanza che c'è, che molti hanno per proprio nell'allargarsi ad altri paesi, titubanza causata anche dalla non conoscenza di queste nazioni. Quindi siamo ben felici oggi di presentarvi una guida appena uscita, è la prima guida Lonely Planet dedicata a Belgrado e agli itinerari in Serbia. È stata realizzata da un docente della Scuola Politecnica di Design di Milano. Diamo il benvenuto a Luigi Farauto. Ciao Luigi. Buongiorno a tutti. Ciao. Ho detto bene, vero? Sei docente alla Scuola Politecnica di Design. Disegni mappe? Ho capito bene? Sì, sì, mi occupo di mappe e cartografia, quindi solo quel ramo della grafica. Ma quindi il navigatore satellitare non ha cancellato la vostra professione? No, assolutamente no. Poi anzi, lo ha stimolato forse. Okay. Comunque. Ma non parliamo di questo, parliamo d'altro. Tu sei anche viaggiatore e hai realizzato questa bellissima guida. Com'è stato visitare la Serbia, visitare Belgrado con l'occhio del turista, ma con l'occhio del turista Lonely Planet, quindi di chi andrà poi a comunicare queste informazioni? Cosa hai raccolto, cosa hai visto, cosa hai captato? Ma devo premettere che io stesso ho un po' subito il pregiudizio che sia un po' sulla Serbia e su Belgrado, nel senso che già ero stato in tutta la penisola balcanica e un po' l'avevo quasi snobbata, no? Perché ha un po' la reputazione di città dei palazzoni grigi, no? Molto. Invece andare lì appunto con l'intento di raccontarla, quindi un attimino più meno superficiale insomma di quando magari viaggerei per i fatti miei, mi ha davvero stupito, è stata una scoperta incredibile. Io in particolare sono un amante delle città che lasciano tracce del loro passato. Sì. Belgrado, nella sua storia dicono che sia stato distrutto 44 volte, quindi insomma ha una storia tanti passati, quindi. Però devo dire che tutti questi strati sono equamente visibili nella città. Occorre essere un po' curiosi, nel senso che non è una città dei grandi landmark, dei grandi monumenti, no? Che dici vado a Parigi, c'è la Tour Eiffel. Ci sono un sacco di monumenti bellissimi, di scorci fantastici o vicoli veramente curiosi, ma occorre andarseli a cercare proprio perché la città c'è, occorre davvero scavare, come ho scritto nella guida. Ascolta, ma la Serbia è Belgrado o ci sono tante Serbie diverse uscendo poi dalla capitale? No, credo che ce ne siano parecchie, nel senso è un mosaico, poi vabbè, come tutti i Balcani, poi credo. Di sicuro Belgrado è la città più europea, diciamo, se siamo nel contenitore giusto, nel senso che è anche poi la città dove tutti gli studenti della penisola balcanica convergono, perché ci sono le università, quindi già uscendo per esempio da Belgrado, già con l'inglese per esempio diventa molto difficile comunicare, proprio io lo trovo estremamente divertente poi perdersi nelle traduzioni. Detto questo, poi beh, tipo Novi Sad è una città che le assomiglia parecchio, molto più piccola, però poi anzi il bello della Serbia è proprio questo, che già spostandosi di 4-5 ore in macchina, a dir tanto, si entra proprio in mondi completamente sui generis, con un fascino molto particolare, a mio avviso. Hai trovato tracce d'Europa o hai trovato voglia di Europa o vocazione appunto europeista nelle persone che hai incontrato, nelle cose anche che hai visto? Di sicuro, tra i giovani questo si respira proprio, ad esempio il quartiere di Savamala, che è una zona poco distante dal centro, quindi l'ex zona portuale nella zona tra il Danubio e la Sava, zona degradata fino agli anni 90, è stata riqualificata e resa un centro di design, quindi in pochi anni hanno trasformato questi palazzoni grigi oppure vecchi depositi abbandonati in mega centri di design che in pochi anni, poi io parlo anche da designer da questo punto di vista, tipo il Mixer Festival, che è un festival di design che si tiene intorno a maggio, non solo ora è assolutamente l'evento più importante di tutta l'Est Europa, ma a livello proprio di design internazionale ormai è sempre più sempre aperto. Più. Benissimo. Sì, comunque ben visto. Luigi, prima di salutarci, abbiamo veramente una manciata di secondi. C'è già Davide Paolini, il gastronauta, pronto di là dal vetro. Qual è il cibo tipico proprio che consigli, così volante, di pancia, da assaggiare assolutamente in Serbia? Vabbè, gli cevapcici a manetta, e poi sicuramente terminare con una rachia per buttare giù i grassi. Grazie a Luigi Farauto, Belgrado, itinerare in Serbia, la prima guida Lonely Planet dedicata alla capitale balcanica. E con Luigi chiudiamo la puntata di oggi. Un grazie a Paolo Corleone alla parte tecnica, Giorgio De Luca in assistenza, Margherita Ina che con me ha scritto la puntata, radio24.it il sito da dove scaricare il podcast, e Federico Taddia @ Federico Taddia sia su Twitter sia su Facebook. Ancora buon sabato, ci ritroviamo la prossima settimana, ciao. L'altra Europa, in collaborazione con Euronet Plus.